Brutte persone, quindi ho brutte intenzioni. Scrivando gli agenti in giro a Piazza Vittorio. Non so se odiano noi ste catene sul collo. Tu due finti amici, pesci morti nell'acquario. Un amico da Mosca che non parli italiano. Farei di tutto per buttarci giù, ma non qualunque. Belli questo mondo è dark, come la gang. Siccome pares, come tiro su sto gash. No, non ti riguarda, tu che sei dentro il club con la gang. Dei sigoni tutti fuori tra di loro. 10 traie sotto casa come abbiate capaci. Mi ricordano di quando ero in strada solo un bambaccio. 12 guardi alla Dark House per 2 grammi di wax. Tony a quel clip clock ti fa fare il tip top. Dammi i soldi di Saddam, sono un re babbar. Sei invitato a casa nostra, sembra il panorama bar. Dark boys dentro il club con la gang. Rosiconi tutti fuori tra di loro. Sento puzza di spia, che cazzo è che l'ha fatto entrare? Un altro sbaglio e vedrai la vera gang. Bar dark boys dentro il club con la gang. Rosiconi tutti fuori tra di loro. Sento puzza di spia, che cazzo è che l'ha fatto entrare? Un altro sbaglio e vedrai la vera gang. E ti giuro stavolta mi ci comprerò casa. Mi fumo la svolta, penso che li rifaccio. Non fare il coatto, sei soltanto un koala. La mia diva mangia con le bacchette per strada. Il mio contatto è cubano, sigarita, lavana. Ho puttane a Napoli, Milano e Catania. T'ho detto facci piano, sta roba non è tagliata. Sangue dal naso sgocciola dentro casa. Amore ti amo ma non so dimostrarlo. Soldi mi chiamano, tu chiamami Pablo. Se mi fermano le guardie sa che io non ci hablo. Panorama bar, rosiconi mi stanno odiando. Ragazza mi vuole a colazione per pranzo. Sto fumando da un sacco a colazione per pranzo. Papà panorama bar a colazione per pranzo. Mangiamo questi stronzi a colazione per pranzo. Dark boys dentro il club con la gang. Rosiconi tutti fuori tra di loro. Sento puzza di spia, che cazzo è che l'ha fatto entrare? Un altro sbaglio e vedrai la vera gang. Bang bang bang bang bang bang.